Fulminati in azienda. 4, ma dato 4 è veramente un figlio della mia. E a me 5! Dico, con tutto quello che ho fatto in questi 6 mesi, 5! E a me 5/6! È grigio! Che voto grigio! È sinonimo di indecisione! O sono sopra o sono sotto la sufficienza! E tu, Pacco, che voto ti ha dato sul pezzo? Sulla mia scheda di valutazione c'è scritto NC non classificabile, leggo le testuali parole. Uno stegista, per quanto faccia, resta uno stegista, quindi non degno di valutazione. No, ma non ci posso credere. È davvero un comportamento inaccettabile da parte di un direttore commerciale. Vabbè, guarda, ad Intrin in generale. Mo' vado e gli dico 4. Ma dove vai, Centri? Attento, non peggiorare la tua situazione. Piuttosto, dottor, mica avessi un'idea. Perché non gheffemo anche noi a lui una bella pagella collettiva de Marco sul pezzo e che la mandemo via mail? Ma scusa, ma che sei scemo? E se ci scopre? Ma no, è un'idea meravigliosa. Potremmo anzi mandargliela per posta. Ho capito, ma se ci scopre? Dai. Centri, proviamo, dai, partecipa anche tu a questa forma di protesta old style. D'accordo, anche allora tu? Mi scrivo il testo e poi che lo mandemo. Cosa che scriviamo, solo i voti coi numeri da 1 a 10? No, a sto punto articoliamo bene il giudizio penale e mettiamo sta sentenza. Ma pensa a te se uno nel 2010 ti deve mandare ancora una lettera manoscritta. Ma dico, ma fammi leggere qui, perché o sei la mia nuova amante e mi vuoi addolcire coi petali di rosa o proprio non hai niente da fare nella vita. Allora vediamo un po', gentile dottor sul pezzo, le inviamo di seguito il nostro giudizio non richiesto sulle sue performance di questo inizio anno. Ma pensa a te che ero leadership, voto 2, se non fosse il capo nessuno l'ascolterebbe, si guardi le spalle. Motivazione dei collaboratori, voto meno 8, ci fa schifo. Simpatia NP non pervenuta, coerenza NPP non pervenuta proprio, prestazioni sessuali Katia Urlo diceva 6, Svetlana ha detto NC non classificabile, certi di averle reso gradito servizio salutiamo i suoi più fidati collaboratori, PS vedrà che nel secondo semestre le cose andranno meglio. Bastardi, adesso li prendo uno a uno e glielo faccio vedere io chi è Marco sul pezzo. E questa è la moneta con cui mi ripagate? È questa qui, cornuto e mazziato, tradito dai suoi più fidati collaboratori. Beh, allora, adesso non esagerare. Adesso io voglio sapere A, chi è il responsabile, B, perché l'avete fatto, C, cosa speravate di ottenere. Marco, è uno scherzo, un gioco, una burlonata, qualche buon tempone si è voluto divertire. Voglio il nome, voglio sapere il nome. Ma se lo sapessimo te lo diremmo, è diffamazione quello che ti hanno fatto. Allora cerchiamo di chiarire l'ambaradan. Che siete stati voi, lo so, no. Perché prima che il gallo cantasse avete tradito e senza denari. Allora adesso davanti a me mi ripetete i vostri voti prima di firmare la lettera di licenziamento che vi ho preparato. Allora Fonti, inizia tu. Cosa pensi della mia leadership? Ma Marco, ma che dubbi hai? Ma tu sai che sei il nostro leader indiscusso, il nostro Paco, condottiere. Grazie. Paco, verbalizza benissimo. Centrifuga sulla motivazione dei collaboratori. Ah, Marco, come motivi tu a gente non lo sa fa nessuno, lo sanno tutti. Bravo, grazie. Abbiamo verbalizzato. Schedule, per caso sulla simpatia e coerenza vi sono pervenuti i voti? Ma certo, Marco, onestamente lo sai che ti ho sempre trovato più che simpatico, empatico direi. E poi sulla coerenza sei come un padre, un modello da seguire. Grazie Paco, bene, tutto verbale. E poi vi ho portato anche, per amor di precisione e non per rendere pubblica la mia vita privata, due registrazioni, una di Katia Urlo e una di Svetlana. Sentite un po'. Beh, la cosa che mi manca di più di Marco è il sesso, a parte il fastidio del cuscino sulla faccia. Vuoto, mio vuoto essere vuoto. Detto bene Marco, bene così. Bene, questo è tutto. Allora Paco, chiudi il verbale, a posto. Adesso Marta Fon su carta filigranata, me lo stampi a caratteri cubitali, ne fai 1000 copie, mille. E mi diffondi il documento a tutti i dipendenti dell'azienda. Tutti. Il pagellino di Marco sul pezzo, redatto da chi spontaneamente ne riconosce il valore. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z 2O 1T.